mamami, vidami, odiami, copiami. Romame ti brividi, noi moriamo giovani. Dovrò vivere ancora per un po', tanto male fare un po' come mi pare. Non ti preoccupare, me la caverò. Giro sempre con la gente da evitare. Sveglia presto, esco. Non mi hai visto brillare mai come adesso. Young legend, nato per questo. È quello che sai, è quello che so. Io ho G-A-W-S-S. Quelle che ti scopi tu, c'è se. God bless it. Mando a fanculo il mondo, mando giù compresse. Nessun rimorso per le cattiverie commesse. Il futuro non è bianco, è grigio e nero. Piede libero sull'asfalto, ma prigioniero. Con le bottiglie nello zaino e lo snap nero. Perché dicono che spacco? Perché è vero. La curva urla, il capo è di nuovo sceso in campo. Guardami bene perché brillo come nessuno altro. Ironia è il sale della vita, io non mangio sciato. Sto troppo in alto, quando piscio vi faccio lo sciampo. Dovrò vivere ancora per un po', tanto vale fare un po' come mi pare. Non ti preoccupare, me la caverò. Giro sempre con la gente da evitare. Sveglia presto, esco. Non mi hai visto brillare mai come adesso. Young legend, nato per questo. È quello che sai, è quello che so. Svegliarsi presto non è più come era una volta. Andare presto a scuola adesso ho la faccia sconvolta. E non mi importa quello che puoi pensare di me, perché troppo male dentro a una certa non si sopporta. Una bottiglia in mano e una canna grossa nell'altra. E la coscienza in giro ancora che spero di ritrovarla. Vivo questa vita soltanto per raccontarla, perché a dire il vero mi fa schifo e stento, riesco a sopportarla. Io sono diverso da quello che penso. Ho fatto la mia anima a pezzi e dopo averla frammentata l'ho chiusa nei versi. A volte chiudo gli occhi, apro la mente e solamente in quel momento realizzo che in fondo non siamo diversi. Dobbiamo vincere adesso, non è mai troppo presto. E più passano i giorni, più vi guardo e vi detesto. Ho messo tutto me stesso in un solo testo. Young Legend, siamo nati per questo. Dovrò vivere ancora per un po', tanto vale fare un po' come mi pare. Non ti preoccupare, me la caverò. Giro sempre con la gente da evitare. Dovrò vivere ancora per un po', tanto vale fare un po' come mi pare. Non ti preoccupare, me la caverò.